versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:08 primi e 17 secondi, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast con Oscar Giannino e vi dice subito di cosa parliamo oggi. Una domanda un po' inquietante, su cui sono molto curioso di vedere come la pensate, e oggi i Doors con This Is The End tornano di attualità, perché la domanda che vi faccio è questa. Commenteremo i dati sull'occupazione Istat resi noti stamane, quelli relativi all'occupazione mese di settembre, ma vi preannuncio subito qual è la domanda che vi faccio, ed è un po' il titolo della trasmissione. Tra l'altro vi rimando anche a Focus Economia con Sebastiano Barisoni, in cui tornerà anche lui a commentare questi dati che sono parte importante della giornata economica. Ecco, il dato eclatante, poi vi rispieghiamo col nostro primo ospite in dettaglio, il dato eclatante è che negli ultimi 12 mesi, cioè da settembre 2016 a settembre 2017, in Italia abbiamo sì 326.000 occupati in più, ma di questi solo 26.000 sono a tempo indeterminato, solo 26.000 sui 326.000 occupati in più. E allora la domanda che si è posta in un post oggi su fastidio.net il mio amico Mario Seminerio, compare dei conti della Belva di sabato, in un post fulminante, è la stessa che io vi rivolgo, cari ascoltatori, se volete chiamarci all'800240024 per le opinioni 349-238-6666. E qual è questa domanda? Tempo indeterminato, a rischio estinzione? Cosa ci dicono questi dati, non mensili, non solo la variazione mensile, ma cosa ci dicono innanzitutto dell'effetto della decontribuzione, del bonus, che è stato il pilastro portante post Jobs Act, visto che il suo obiettivo era quello di modificare in maniera strutturale il mix dell'occupazione dipendente a favore appunto del tempo indeterminato, cioè del contratto a tutele crescenti. Cosa ci dicono delle imprese nella ripresa che si consolida italiana? Ci dicono qualche cosa che a vostro giudizio riguarda il fatto che vanno condannate? O invece ci dice che è la composizione, il mix del lavoro italiano, qualcosa che ha a che fare non solo e non tanto con la mancanza di sicurezza in orizzonti più lunghi dal punto di vista delle imprese, che secondo i dati sono tornate a investire con l'industria 4.0 e gli incentivi, ma riguardano invece evidentemente una caratteristica nuova del lavoro, da capire meglio prima che da condannare. Oppure può anche essere che voi pensiate no, è il figlio di storture, perché comunque i bonus così significativi a tempo inducono le imprese a un atteggiamento di, tra virgolette, astuzia, di ottimizzazione del margine con la decontribuzione, ma in realtà poi l'effetto è addirittura negativo, il rebound, il contraccolpo successivo, scusatemi, è negativo. Un mix di tutte queste ragioni? Ecco, la domanda a rischio estinzione, però io vorrei che almeno qualcuno tra voi la prendesse non solo come ripartizione di colpevolezza, ma piuttosto se non dobbiamo interrogarci un pochino più approfonditamente. In questa settimana lo abbiamo fatto parlando di un libro dell'occupazione industria 4.0, lo abbiamo fatto ieri parlando del libro di Dario Di Vico, Il paese dei diseguali, in cui abbiamo visto come la frattura della diseguaglianza all'interno delle diverse figure del lavoro, tempo determinato, le tre tipologie di operai, precari autonomi e poi la frattura generazionale, fossero tutte coordinate su cui incardinare la riflessione sul lavoro. Quindi questa è la domanda che faccio a voi e vi prego intervenite numerosi, perché questo è proprio un interrogativo del nostro tempo. Non ne faccio una questione prendiamocela con Tizio, prendiamocela con Caio, PD, anti-PD, Renzi, Poletti, no. Il punto di fondo è che di fronte a questi dati, che sono dati oramai che assumono una consistenza di medio periodo, Beh, c'è bisogno di una riflessione da parte di tutti, ci sarebbe bisogno anche della politica, che invece in campagna elettorale sarà ovviamente ingessata ciascuno a rivendicare i propri meriti o, per chi sta all'opposizione, le proprie colpe. Però il dato è troppo rilevante per assumerlo semplicemente come una tendenza mensile, non lo è, perché il dato che vi ho detto è su base annuale. Allora, intanto tentiamo di capire... ogni mese io ho una regola di solito, cioè rilancio i 10 sintetici tweet che servono a sintetizzare meglio e a chiarire meglio le cifre che vengono rilasciate sull'andamento del lavoro o l'andamento dei contratti o l'osservatorio del precariato da parte dell'INPS, e l'autore di questi 10 tweet torna con noi, lo so, sembra una mania da parte mia, però che volete da me, è un punto di riferimento per capire le cose, il direttore della Fondazione ADAPT, Francesco Seghezzi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Io però a te non chiedo prima la risposta alla domanda, ti chiedo prima ai nostri ascoltatori di rispiegare nell'ordine i 10 tweet di sintesi sui dati dell'occupazione Istat settembre rilasciati questa mattina. Poi andiamo alla risposta della domanda e poi però abbiamo anche un obbligo aggiuntivo. A seconda di come rispondi, ti chiedo anche un'opinione sui nuovi sgravi che abbiamo appreso essere in legge di bilancio. Adesso è finalmente chiaro, riepiloghiamoli ai nostri ascoltatori. Dal gennaio 2018, se viene approvata la legge di bilancio così come inizia il suo iter oggi a Palazzo Madama, io prevedo cambiamenti comunque, li prevedo con una ragionevole certezza su molti di questi bonus, vedremo se anche sugli sgravi per i nuovi occupati. Comunque dal gennaio 2018 scatta una nuova forma di decontribuzione per l'occupazione, in questo caso stabile giovanile, perché ci sono dei limiti di età. Quindi nelle imprese private viene introdotto uno sgravio del 50%, cioè una decontribuzione pari al 50% per i primi 3 anni di contratti a tutele crescenti, e il tetto annuo è di 3.000 euro. E nel primo anno, quindi nel 2018, l'incentivo riguarda l'assunzione a tempo determinato degli under 35 che non abbiano mai avuto prima rapporti stabili di lavoro. Poi dal 2019, dopo questo primo anno di sgravi per gli under 35, dal 2019 lo sgravio è limitato agli inserimenti fissi dei giovani fino a 29 anni, quindi scende il requisito di età. Lo sgravio invece è al 100% nel 2018 ed è per un solo anno al sud, cioè c'è la proroga del vecchio bonus sud, mentre quello precedente, ve lo ripeto, al primo anno è del 50% e per gli under 35, il secondo anno diventa per gli under 29. E il bonus intero per 3 anni, sempre col tetto annuo a 3.000 euro, arriva anche previsto se si sottoscrive un contratto a tutte le crescenti di ragazzi che hanno svolto l'alternanza, almeno il 30% del totale delle ore previste di alternanza scuola-lavoro, oppure periodi di apprendistato di primo o di terzo livello. Questi sono i nuovi sgravi. La domanda da farsi è, una volta che ci siamo chiariti le idee su cosa pensare dell'effetto degli sgravi, quanto sono responsabili gli sgravi o incolpevoli di questo dato in cui il 94% degli occupati aggiuntivi è a tempo determinato, arriviamo anche a abbozzare un primo giudizio sugli sgravi per il 2018. Allora, Francesco, cominciamo con il primo dei tuoi 10 punti. Naturalmente ricordati che a casa non hanno lo schermo acceso, non possono vedere i numeri, quindi bisogna essere un po' metodici e didascalici. Allora, i dati di settembre sono dati che, pur essendo mensili, sono importanti perché danno un po' l'idea di che tipo di ripresa ci aspetta, perché dopo l'estate, che solitamente è segnata dalla stagionalità, quindi da lavori che durano poco, che spesso coinvolgono quelle persone che durante l'anno lavorano meno, quindi donne e giovani, il settembre è un dato che ci aiuta a capire un po' che mesi ci aspettano. Il primo elemento è che gli occupati non crescono di 2.000 unità, quindi statisticamente sul mese è zero, maschi più 15.000, donne meno 13.000, però diciamo che è un dato poco influente, ma che comunque dà l'idea di quello che è questo mese, perché se gli occupati non crescono, i disoccupati non calano, ossia il tasso di disoccupazione resta fermo all'11,1% e oggi proprio l'Eurostat ci dice che invece a livello europeo è in calo, la media europea è dell'8,9%, ma è una media che tiene conto del 17% della Spagna e dell'oltre 20% della Grecia, quindi la maggior parte dei paesi europei è più bassa di noi, l'Italia è il terzo paese. E l'altro dato interessante è che dopo 5 mesi di calo gli inattivi ricominciano a crescere, crescono di 25.000 unità, ma comunque ricominciano a crescere. Quindi un mese piatto, ma su base annua un mese che 12 mesi che confermano comunque, come dicevi prima, 326.000 occupati in più, 150.000 disoccupati in meno e 190.000 inattivi in meno. Quindi sui 12 mesi, diciamo, lo scenario complessivo, senza guardare nei dettaglio alla qualità di questi posti di lavoro, è uno scenario che comunque conferma un trend di crescita. Ma se poi andiamo a vedere più nel dettaglio, scopriamo alcune cose. Primo, che il numero degli occupati che resta fermo è dato dal fatto che i lavoratori dipendenti diminuiscono di 17.000 unità, mentre tornano a crescere gli indipendenti, i lavoratori autonomi. Questo perché? Perché spesso a settembre è un mese di ripartenza o di apertura di nuove attività che magari si erano ultimate durante la fase estiva. Mentre dal punto di vista dei 12 mesi, quindi sull'anno, come dicevi prima, abbiamo 26.000 occupati in più permanenti e 361.000 a termine. E il dato interessante è appunto che se noi vediamo il trend, nei 12 mesi la crescita degli occupati permanenti è stata dello 0,2%, quindi pari a zero praticamente, mentre la crescita degli occupati a termine è stata del 14,8%, quindi una crescita molto marcata. Tant'è che se noi facciamo il conto su tutti i lavoratori dipendenti negli ultimi 12 mesi, il 94% è un occupato a termine, questo è un dato assolutamente indicativo. Ultimo elemento, per non dilungarmi, è l'aspetto demografico, che come sappiamo incide molto nell'andamento dell'occupazione. L'Istat, depurando dall'aspetto demografico, quindi da quante persone sono entrate o uscite nelle diverse coorti anagrafiche, mostra come anche questo mese l'occupazione si è trainata dagli over 50, che crescono dell'1,9%, mentre quelli tra 15 e 34 dell'1,3%. E ultimo dato che do, si conferma il paradosso del fatto che i disoccupati over 50, che uno immagina che stiano calando, essendo che aumentano gli occupati, in realtà sono aumentati del 10%. Questo perché? Perché molto probabilmente l'occupazione over 50 è trainata dalla riforma Fornero, quindi dall'impatto. Lo ripetiamo da anni ormai. Mentre chi perde lavoro dopo i 50 anni invece fatica a trovarlo, e con le nuove regole sulla cassa integrazione che stanno andando a esaurimento, tante casse integrazione di imprese che in questi anni non sono riuscite a uscire dalla crisi, tanti lavoratori over 50 stanno perdendo il posto e non riescono a trovarlo. Allora, sentiamo subito la prima telefonata, visto che ci chiama Claudio dalla provincia di Milano. Claudio. Buonasera Oscar, buonasera agli ascoltatori. Io, la mia storia è questa. Io ho iniziato a lavorare nel 98 con una bella laurea scientifica in mano e ad oggi ho collezionato una cinquantina di contratti di lavoro in giro non soltanto a Milano o Lombardia, anche in altre regioni. Non so cosa sia ad oggi un contratto a tempo indeterminato. Ho firmato contratti co-co-co, con la scuola pubblica ho firmato supplenze da un mese, da 2 mesi, quella più grande da settembre a giugno, e comunque sono vivo, sono ancora qui. E dal 98? Io mi sono laureato nel 95, poi ho fatto il servizio civile e ho iniziato, mi sono liberato e mi sono messo nel mercato del lavoro nel 98. Non ho lavorato solo, ho fatto diversi lavori, appunto un po' di insegnante supplente, di consulente tecnico a HACCP, insomma igiene degli alimenti, per un paio d'anni, e qui avevo il co-co-co. Però io, cosa sia un contratto a tempo indeterminato, ad oggi, caro Oscar, ancora non ho il piacere di... Però insomma si campa così, ecco. con una laurea scientifica in mano e con la disponibilità. Ho fatto supplenze in Trentino, in Piemonte, in Liguria, in Emilia Romagna. Quando facevo le ispezioni igienico-sanitarie andavo anche in Piemonte, quindi non è che dico no, ma io voglio solo lavorare a Milano e provincia. Cioè, mi sono, scusi il termine, anche sbattuto parecchio. Direi anche basta solo guardare la cartina geografica e i posti che ha indicato, in effetti. Io non so se sono una mosca bianca o c'è tanta gente così, comunque... Posso farti una domanda? Per la tua specializzazione hai avuto l'impressione, qualche volta o il più delle volte, che fosse, dal punto di vista dell'azienda che ti richiedeva la collaborazione, corretto mantenere un rapporto esternalizzato, che quindi si fa classicamente con un professionista a tempo, oppure era una maniera, tra virgolette, comoda, ma in realtà per quel tipo di azienda la tua funzione avrebbe avuto molto più senso internalizzata? Io credo che, adesso brutalmente, parliamo della consulenza in igiene degli alimenti in giro per a fare le ispezioni, conveniva tenermi come co, questo penso sia abbastanza ovvio. Parliamo degli anni, fine, io ho lavorato lì dentro dal 2000 al 2002, ecco, quindi parliamo di anni fa, poi mi sono buttato nella scuola, quindi quel periodo lì come co, credo che convenisse a loro, diciamo, mettermi in quel... Io comunque devo dire la verità, pur avendo una madre sindacalista non ho mai contestato, firmavo e lavoravo, Oscar, non mi sono mai... No, questo l'ho capito, insomma, ti fa onore, ma certo dopo 20 anni uno... sì, diciamo che scoccia, ma caro mio, l'Italia questa è... con una laurea, io mi ricordo quando andavo all'università i miei professori dicevano studiate tanto che poi, insomma, laurea in scienze degli alimenti, la gente deve mangiare, quindi non avrete problemi. No, poi sappiamo benissimo, l'alimentare è un'eccellenza anche dell'export italiano, made in, boom, bam, boom, bam, e invece 20 anni così. Forse anche un po' colpa mia, non mi sono... Se è colpa tua, ma tu alla domanda stiamo andando all'estinzione del tempo determinato, che risposta dai? Amen. Ok. Ti ammiro, per molti versi ti ammiro. Guarda, io sono una partita IVA e a me scadono ogni 9 mesi, quindi figurati. Però so che dura, perché anche mia moglie mi dice tu sei matto da 20 anni a aver fatto questa scelta, quindi figurati se non ti do ragione, ma non mi metto sicuramente al tuo stesso piano. Ho fatto i miei periodi di disoccupazione e so che cosa vuol dire, soprattutto so che quando hai figli diventa un problema. Tu hai famiglia? Fortuna mia è che essendo io brutto, cattivo e antipatico non ho moglie, non ho figli, quindi non ho quel problema. No, ma il problema non è che sei brutto e antipatico, il problema è quanto questa condizione abbia influito su questa tua scelta. Naturalmente non ti chiedo. Un po' sì, ovviamente. Però, insomma. Comunque, così. Grazie della tua testimonianza. Sentiamo Fabrizio che ci chiama da Asti. Fabrizio. Buonasera, Giannina, buonasera a tutti gli spettatori nuovi. Ascoltatori. Ma guardi, io sono figlio di emigranti. Mio padre arrivò nel 65 al nord e fece per tutta la sua vita praticamente un lavoro solo, che fu lavorare alla Weber Carburatori, a costruire carburatori per il mondo Fiat. E aveva, mi ricordo, un pollice della mano con un callo, perché cambiavano i modelli, ma in qualche misura doveva mettere una qualche guarnizione, quel pollice aveva un collo. Io ci giocavo quando ero ragazzino. Ecco, io dico sempre, io sono un formatore in ambito salute e sicurezza, sono un consulente aziendale in quel settore, ho una doppia partita IVA, la mia vita ha preso una piega completamente diversa. Nei corsi di formazione io dico questo callo qua io nelle mani non ce l'ho più e non esiste più questo callo qui e non esisterà più. I lavori a tempo indeterminato, mia figlia che ha 17 anni, ne avrà 18 tra breve, non faccio in lei nessuna illusione e né mi illudo io che possa al termine del suo percorso di studi trovare un lavoro che sarà quello per tutta la vita. La cosa che lei dovrà imparare sarà la duttilità. Quelle competenze pre-professionalizzanti che sono il lavoro di squadra, continuare a guardare avanti, capire che la riformazione è continua. Io lo so, detta così, però chi ci ascolta dice quanto la fate facile. non lo so, però io rispetto molto chi questa scommessa l'ha fatta nella vita, quelli come noi l'hanno fatta nella vita. Però detto tutto questo, invece torniamo, grazie quindi anche a Marco da Cremona, continuate a telefonarci. Francesco Seghezzi, dal suo punto di vista, perché lei non è solo l'interprete dei dati, poi è anche uno studioso e ha, cioè, nel suo libro di cui abbiamo parlato, dà un'interpretazione di come il lavoro debba trasformarsi, però questi dati ancoriamoli al Jobs Act e ancoriamoli alla decontribuzione, che è stata bella massicciotta, stiamo parlando di insomma, un bel pacco di miliardi ogni anno in cui è durata. Prima di arrivare a cosa pensa del rinnovo, che cosa pensa? Penso che i dati confermano che è stata una lotta contro il mulino a vento, nel senso che abbiamo cercato di interrompere un flusso che nel mondo economico, nel mondo della realtà delle imprese sta andando in una direzione, ossia tempistiche di rapporti di lavoro inferiori, perché, ma non perché le imprese non vogliono avere con loro i lavoratori, magari qualcuna sì ovviamente, però in generale per il fatto che i cicli di vita dei prodotti sono più brevi, il mercato è molto più competitivo e cambia in continuazione, la domanda di competenze si evolve e quindi il pensiero che tu entri in un posto di lavoro come diceva l'ascoltatore, ma come chiunque poteva entrare in Fiat negli anni 60, usciva pensionato. Oggi questo concetto non c'è, noi con la decontribuzione abbiamo provato a far cambiare, diciamo, la rotta del mercato del lavoro, non ce l'abbiamo fatta. Oggi diciamo che l'obiettivo non era quello, ma era semplicemente quello di far crescere un po' gli occupati a tempo indeterminato, ma in realtà stiamo smentendo quello che invece abbiamo detto vigorosamente 3 anni fa, dicendo che invece l'obiettivo è proprio non dare più nessun alibi alle imprese per investire a tempo indeterminato. A quanto pare l'alibi che le imprese necessitavano non era di natura economica, nel senso non era un alibi legato a soltanto al costo di quei contratti. Sicuramente ha inciso e hanno riassorbito quei lavoratori a tempo determinato che erano a tempo determinato soltanto per un motivo di costi, ma questo effetto è stato molto breve. Adesso vediamo come sta riprendendo, e anzi paradossalmente più passano gli anni, perché comunque sono passati 3 anni, riprende con più forza. Oggi abbiamo il maggior numero di occupati a tempo determinato della storia del mercato del lavoro italiano. Allora, adesso noi andiamo a una pausa per un po' di pubblicità e le notizie sulla borsa, e poi torniamo con Francesco Seghezzi. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta, stiamo parlando di questi dati del lavoro di settembre, ma in chiave annuale la domanda che vi abbiamo fatto, visto che sugli occupati aggiuntivi annuali il 94% a tempo determinato, la domanda ho assunto quella di Mario Seminerio nel suo post che potete leggere integralmente su fastidio.net: ma stiamo andando all'estinzione del lavoro a tempo determinato? Se sì, cosa vuol dire? Tutto negativo? Colpa di chi? I bonus, i miliardi dei bonus sono stati bruciati inutilmente? Io sono dell'idea di sì, ma io ve lo dicevo dall'inizio di aver proposto a Renzi insieme a Luca Ricolfi e ad alcuni altri, ma dalli a chi riserva la decontribuzione a chi fa posti di lavoro aggiuntivi rispetto alle piante organiche, cioè aggiuntivi davvero, non a ogni cambio di contratto. Questa era la mia proposta, vedo che nei fatti era una buona proposta, però è stata imboccata un'altra strada. Ma il mix, come vedete, non è che non abbia intaccato la quota di lavoratori a tempo determinato. Sono cresciuti, sono al massimo storico, ci diceva Francesco Seghezzi di Adapt, che è con noi. Nei vostri sms una raffica di opinioni diverse, cioè chi dice che io e Radio di Confindustria, come sempre, vengo immedesimato in una cosa in cui vi posso garantire non c'è da immedesimarmi, perché loro per primi vi direbbero che non la pensano come me, e dicono che vi vogliamo schiavizzare, alcuni di voi. Guardate, non voglio schiavizzare proprio nessuno. Un altro dice che vogliamo affamarvi e disperarvi. No, neanche per idea, tant'è vero che vi pongo un quesito e siamo pronti ad ascoltare chiunque. Io sostengo che le tipologie di lavoro devono cambiare e la nostalgia di quello fordista è la cosa per me più incomprensibile al mondo. Però, detto tutto questo, avete sentito l'ascoltatore che dice che va avanti da 20 anni col tempo determinato, mi pongo il problema di che cosa voglia dire, cioè mica le imprese non hanno colpe. Certo, se però il politico gli dà 10 miliardi di euro l'anno, se le prendono le imprese, però allora capite bene che forse il problema è la politica che non ha le idee chiare e che non mi pare neanche rifletta su quello che stia avvenendo. Allora sentiamo ancora qualcuno di voi e poi torniamo con Francesco Seghezzi, col quale avevamo finito la riflessione dicendo in maniera molto critica sulle decontribuzioni. E allora la domanda successiva diventa: ma allora queste che arrivano? Però prima sentiamo ancora Carlo che ci chiama da Roma. Carlo, prego. Carlo da Roma, buongiorno, 60 anni. Sì. Il mio punto di vista per integrare il contesto. 20 anni in banca, sono andato via da un lavoro a tempo determinato. Sì. Mi sono creato una mia struttura aziendale, sono diventato CEO della mia micro azienda. Mi occupo di, ho visibilità sul settore moto vendita, autovendita. Mm. Un ragazzo che fa un incidente con un motorino non ha più le condizioni per comprarsi un motorino nuovo, né in contanti né a rate, perché non passa la finanziaria. Mm. Con un contratto a tempo determinato, 3 mesi più 3 mesi, attraverso una cooperativa che non crea storico. Con un contratto da 700 euro al mese passa poco di rata, se non ha altre rate precedenti. Mm. L'adulto, nella stessa situazione, deve cambiare macchina. Non si vendono più macchine. Le immatricolazioni in questo momento in Italia sono tutte per flotte e per renting 24 mesi. Le nuove generazioni non possono avere macchina. Questo creerà un grosso, grossissimo, enorme problema anche al mercato automotive, che è il mercato tra i principali in Italia. Se non si mettono correzioni immediatamente, i problemi arriveranno solo a orologio. È una bomba a orologeria innescata al sistema del lavoro in questo momento in Italia. La pagherà la nuova gestione, i nuovi governi, le nuove generazioni che nel frattempo se ne vanno all'estero. Quelli, tra virgolette, che hanno dietro un po' di chino di patrimonio, un buon capitale umano e sono molto disposti a sbattersi. Sì, sì, lo sappiamo. Purtroppo ha ragione in questo. Sentiamo ancora Riccardo da Roma. Riccardo. E io invece vorrei, 67 anni, 6-7, dipendente pubblico comune di Roma. Tanti anni fa ho dato le dimissioni perché mi ero scocciato di pensare che il mio futuro fosse solo scatti automatici, né merito né impegno. Quindi sono andato prima nel privato come dipendente, ho dato le dimissioni anche da lì, ho cominciato a fare attività di impresa. Poi sono stato anche richiamato nella pubblica amministrazione a fare il dirigente generale da più parti. Mi sono ridimesso quando non mi andava bene più quello che mi veniva richiesto e continuo a lavorare e lavorerò fino alla fine, divertito, insegnando ai miei studenti in LUISS che l'importante è avere la passione per quello che si fa. Il lavoro fisso è un'illusione dell'Ottocento. Noi abbiamo bisogno di lavoro, non di lavoro fisso, e vince chi sa cambiare, chi sa rifarsi. Ho cambiato settori, dalla pubblica amministrazione alla sanità, all'informatica, in aziende italiane e americane. Senza nessun problema. Chi ha voglia di fare il lavoro, chi ha voglia di fare, Riccardo, ha figli? Ha figli, Riccardo? Certo. Una, e loro come la pensano? Altrettanto così, hanno preso partita IVA e hanno rifiutato posti. E io mi ritrovo in queste scelte, sono rischiose ma molto faticose e chiedono di stare con i libri e la formazione sempre in mano, apparentemente. Questo bisogna dirlo. Però certo è un'altra concezione e mi rendo conto che a molti questo appaia come una cosa che si possono permettere solo chi ha. Ma siete davvero convinti? Sono tantissimi quelli che invece fanno una scommessa di formazione permanente ma non hanno dietro ricchezza e patrimoni. Cioè, non sto parlando di quelli che iniziano fin dal ciclo delle scuole elementari ad andare a scuole corrette da 8, 10, 12 mila euro l'anno, e quelli certo hanno un altro capitale di formazione. Però torniamo a Francesco Seghezzi. Alla luce di quello che ci hai detto prima dell'introduzione, i bonus della legge 2018 che ho riepilogato prima, ti sembrano meglio circoscritti e individuati sui giovani con le diverse caratteristiche, comprendendo anche la formazione al lavoro, l'apprendistato, 100% solo al sud, tra 50 e 30% tra il primo e il secondo anno e con un diverso tetto anagrafico, oppure la lezione non è ancora stata ben imparata? Allora, la logica complessiva mi sembra la stessa, nel senso che c'è una differenza dal punto di vista anagrafico, ossia ci andiamo a concentrare su una fascia d'età che è quella che ha pagato un po' di più il prezzo della decontribuzione precedente, che è andata a vantaggio soprattutto di coloro che avevano già più competenze, più maturità, che magari avevano perso lavoro e quindi si trovavano sul mercato. Ma dal punto di vista complessivo mi sembra che appunto la logica non sia cambiata. Potrebbe avere un effetto positivo nel breve termine, come è stato in precedenza, ricordandoci che è al 50%, non è totale, tranne in certe regioni d'Italia. Ma alla lunga io credo che possano riproporsi gli stessi problemi. L'unico aspetto potrebbe essere il fatto che, essendo dedicata ai giovani, e quindi saranno i giovani a beneficiarne, poi questo in qualche modo inneschi un meccanismo per cui questi giovani rimangono più tempo nel mercato del lavoro con questi tipi di contratti. Ma questo negherebbe quello che ho detto prima sulla struttura del mercato del lavoro e dei fabbisogni delle imprese. Io avrei puntato molto di più sull'apprendistato, perché è una forma, esatto, che va bene per i giovani, che già in parte è decontribuita, quindi arrivare a una decontribuzione totale costava molto meno, e che in qualche modo però permette alle imprese di fare un investimento sulla produttività, ossia un investimento per allineare le competenze di cui hanno bisogno e gli investimenti. Penso a tutti gli investimenti del piano Industria 4.0, dei quali bisognerà tener conto, mentre invece facendo così in qualche modo si crea quello che secondo me è un pericoloso dualismo tra, da un lato, il contratto a tempo indeterminato, dall'altro il tirocinio, che in Italia è utilizzato molto male, lasciando in mezzo l'apprendistato, che resta ad essere il contratto più vantaggioso. Nel 2018 lui converrà comunque fare gli apprendistati, ma che a fronte di una serie di complicazioni burocratiche e dell'impegno all'attività formativa, l'impresa non sceglierà, perché con qualche soldo in più potrà scegliere se vuole tutte le crescenti o se vuole risparmiare il tirocinio. Allora, altra raffica di SMS da chi mi dice che dico solo cazzate, perché non tengo presente che la stragrande maggioranza delle persone ha basse capacità e bisogna pensare a loro innanzitutto, perché sono loro che poi finiscono in povertà assoluta, eccetera eccetera. La mia risposta è sì, guardate che è il welfare che voi pensate che sia sotto attacco, quello che non dà niente a chi è in povertà assoluta e agli incapienti. Non so se è chiaro, cioè i bonus non sono andati a loro, quelli che io critico non ci sono andati. E se andate a vedere, ma non stiamo parlando di questo, come nella legge di bilancio ci si inventa il modo per preservare i bonus 80 euro ai dipendenti. Volevano farlo solo per i dipendenti pubblici, ci siamo messi a urlare un po' di noi e l'hanno dovuto evitare perché era incostituzionale, ma per preservare il bonus 80 euro a chi ha gli aumenti di stipendio, se andrete a vedere, ne parleremo meglio un'altra volta, in legge di bilancio ottengono il paradosso che a salvare più del bonus sarà non chi guadagna meno ma chi guadagna di più. Questo è diventato un paese folle dove, pur di rimanere ancorati a una formuletta politica da difendere in campagna elettorale, si fanno delle strutture assolute. Capite? Ecco, però incapienti zero, quindi attenzione, perché è questo welfare qui che non si preoccupa di chi è sotto il livello di una dotazione di capitale umano e di una dotazione di capitale di reddito e stock di patrimonio. E questa è una stortura di questa maniera qua di concepire il welfare, che c'entra secondo me anche relativamente poco con quello di cui stiamo parlando. Perché l'altro capitolo che la politica non ha voluto imboccare è quello delle politiche attive del lavoro, capisci? Invece di continuare a spendere pacchi di miliardi in bonus e pacchi di miliardi sulle politiche passive, ecco, le politiche attive è un problema che è buttato lì nel dimenticatoio, e invece è un pezzo fondamentale dell'occupabilità. Esattamente poi rivolta a chi tra virgolette sta peggio e non a chi sta meglio. Però queste sono le mie opinioni personali. Adesso abbiamo l'informazione sulle strade e poi torniamo con altre vostre telefonate. ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... La versione di Oscar. C'è anche qualcuno che aggiunge: i bonus Renzi quest'anno li dà ai giovani perché sono quelli che sfuggono all'informazione di Rai e Stampa, non leggono i giornali, siamo sotto elezioni. Vabbè, questa è un'interpretazione personale. Qualcuno che dice formazione in Italia, ma quella serve solo a dar lavoro ai formatori. Questo è un giudizio che sottoscrivo. Molto spesso, purtroppo, è così, non sempre, ma tradizionalmente è così, se pensiamo ai vecchi uffici provinciali del lavoro. Sentiamo come la pensa Daniele da Como. Daniele, prego. Sì, buonasera Giannino, buonasera agli ascoltatori. Io volevo porre un accento su una questione sociale, nel senso nel lungo periodo. Mi chiedo se siamo proiettati verso una precarizzazione del lavoro, però i mutui poi sono trentennali. Come fai a combattere il mutuo con la precarizzazione del lavoro? Come si fa a vivere in un mondo solo dove il lavoro solo cambia, ma dove i criteri per la concessione del credito rimangono quelli del mondo fordista del tempo determinato a vita? Ecco. È un'ultima osservazione, ma come si fa a far collimare un impegno eccessivo nell'attività professionale, perché se sei precario è così, finisce persona, così, certo. Come fai a fare una famiglia, a fare figli, a dare un'adeguata educazione? Esatto, devi fare i salti mortali, si fanno i casini agli stadi, ecco, attenzione, via, lei ci sta dicendo, cioè, non c'è un welfare e non ci sono regole del credito in tutto quello che consente di fare delle scelte nella vita. Anche sostegno alla formazione ha bisogno di capitali, di capitali il cui rientro e poi deve essere previsto successivamente nel tempo dopo l'occupazione. Tutte queste cose che dovrebbero essere coerenti a un mondo di occupazione a tempo determinato e sulla riformazione, in Italia non ci sono, però non ci occupiamo di quello, e questo è un punto, lei ha perfettamente ragione, che dovrebbe preoccupare le forze riformiste però politiche, no? Invece che continuare a dire vabbè, facciamo altri anni ancora di vecchia cassa integrazione, colché le risorse per le politiche attive non ci sono. Poi, Alessandro da Torino, come la pensa Alessandro? Sì, buonasera, ciao Oscar. Allora, la domanda vera secondo me non è tanto se sopravviverà il mondo a tempo indeterminato o meno, ma sarà quanto viene pagato quello determinato. Perché il problema è anche questo: se io sono una partita IVA e il mio primo socio è lo Stato, lo sai benissimo, oppure sono anche un dipendente a tempo determinato e il 50% del mio stipendio va in tasse che dove non vengono convertite in servizi, quindi devo pagare due volte. Il problema è questo, quindi il mio problema è, io ho 30 anni, non è tanto avere il tempo indeterminato o determinato, perché io il tempo determinato lo accetto tranquillamente, anzi sono anche contento perché mi stimola a imparare, mi stimola a cercare nuove cose, mi stimola un sacco di cose, ma se è tutto rapportato a un guadagno che mi possa permettere di superare i periodi di indeterminatezza, chiamiamola così, questo è chiaro, e qui almeno... E equivale anche per i figli, cioè ovviamente se io ho dei figli e sono determinato ad avere uno stipendio tale da poter superare certi determinati periodi, che non vuol dire alzare il salario lordo, ma è alzare quello netto. Questo è lo stato, sai, però ci dicono che adesso che mischiamo l'aglio e la cipolla, perché se io attacco con le mie cose sull'eccesso di tassazione italiana che grava sul lavoro, è chiaro? E l'IRPEF iper progressivo è solo sui redditi da lavoro, perché su tutti gli altri redditi delle persone fisiche, capitali, immobili eccetera, lo Stato nei decenni si è inventato aliquote flat, proporzionali, ecco, indipendenti dalla quantità di reddito e proporzionali al reddito. Allora, eppure voi difendete pure l'attuale progressività IRPEF, che invece, ripeto e sottolineo, grava solo su lavoro e pensioni. Vabbè, quindi come vedete siamo al punto che forse il lavoro cambia, opporsi secondo me è un po' ideologico, le imprese avranno le loro colpe, ma il problema era di non coprirle di miliardi, ma in sintesi quello che manca sono tutte le condizioni di contorno. Come conclude Seghezzi? Come facciamo ad accompagnare questa trasformazione del lavoro? Intanto smettendo di pensarla e discuterla con le categorie vecchie, secondo me l'idea che contatti più brevi coincidano con una precarizzazione del mercato del lavoro è sbagliata, nel senso che la precarietà, che è un problema che può esserci e che spesso è molto presente, non credo coincida più con una forma contrattuale. un tempo, se c'erano certi, se uno aveva una certa forma contrattuale, molto probabilmente era precario. Oggi credo che la precarietà dipenda dal tipo di contratto che uno ha in relazione all'esigenza che ha un'impresa e all'esigenza che il lavoratore stesso ha. Per cui magari uno non ha l'esigenza di stare 20 anni in un'impresa perché vuole intraprendere un percorso di carriera di un certo tipo. Mentre invece in altri casi un'impresa potrebbe benissimo assumere a tempo indeterminato un lavoratore perché fa una mansione molto standard, ripetitiva, che sa che per i prossimi 5-6 anni potrebbe avere, e è un lavoratore che è facilmente ricollocabile all'interno dell'impresa, ma non lo assume con contratto a tempo indeterminato perché vuole risparmiarsi i costi, eccetera, eccetera. Quindi le situazioni sono molto complesse e non farei coincidere queste due cose. Neanche io, però cambierei moltissimo di tutte le condizioni di contorno, perché altrimenti ci perdiamo generazioni che pagano il prezzo della difesa con la testa rivolta allo specchietto retrovisore delle generazioni, quelle con più anni, che sono ipersindacalizzate, che hanno una capacità di contrattualizzazione con la politica e di difesa con la politica, lo rivedremo anche nella legge di bilancio, vedrete, sui propensionamenti, molto più forte dell'esercito dei tra virgolette deboli, giovani, donne, e che sono il popolo a tempo determinato. Benissimo, Luca da Pisa, ce la fai in 30 secondi, Luca? Sì, ce la faccio. Buongiorno Oscar, no, io volevo solo dire una cosa in contrapposizione. Io sono una partita IVA, sì. Mi piaceva spezzare una lancia per le persone un pochino più deboli, visto che quel signore di Roma che si è dimesso dal pubblico, dal privato, è così bravo. Non tutti sono così, anzi, esatto, a lui appartiene a una minoranza. Ovvio. Oltretutto io opero nel settore metalmeccanico, quindi le posso garantire che le aziende che abbiamo in Italia sono l'eccellenza. I tedeschi non ci insegnano. No, è vero, ma si vede nell'export in molte specializzazioni, come dici tu. Resta il fatto che secondo me ci dovremmo dedicare alle condizioni di contorno che mancano, perché la trasformazione del lavoro continuerà ed è inutile buttare via i soldi nei bonus a tempo per le lezioni. Questa resta la mia opinione. Grazie a Francesco Seghezzi, appuntamento domani, anche se è festa, ma domani siamo noi all'8:15 con Luca Telese a 24 mattino e il pomeriggio in diretta alla versione di Oscar.